466. Filetti di sogliole col vino. Prendete sogliole che non siano meno di grammi 150 ciascuna. Levate loro la testa e spellatele. Poi, con un coltello che tagli bene, separate dalle spine la carne per ottenere 4 lunghi filetti per ogni sogliola, od anche 8 se le sogliole fossero molto grosse. Con la costola del coltello batteteli leggermente e con la lama del medesimo spianateli per renderli sottili e così conciati lasciateli per diverse ore nell'uovo frullato, condito con sale e pepe. Involtateli poi nel pan grattato e friggeteli nell'olio. Dopo versate in un tegame o in una teglia, ove possano star distesi, un gocciolo di quell'olio rimasto nella padella e un pezzetto di burro. Disponeteci sopra i filetti, conditeli ancora un poco con sale e pepe e quando avranno soffritto alquanto, bagnateli col vino bianco asciutto. Fate bollire per 5 minuti insieme con un poco di prezzemolo tritato e serviteli con la salsa che hanno, spargendoci sopra un pizzico di parmigiano. È un piatto di molta comparita. Servitelo con spicchi di limone. Anche i naselli si possono cucinare nella stessa maniera. La parola asciutto, applicata al vino, in questo caso è di rigore, perché altrimenti la pietanza saprebbe troppo di dolce. Una sogliola di comune grandezza può servire per una persona.